GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale all'alba sulla Cimpello Sequals, muore un giovane di 25 anni residente a Spilimbergo. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Intanto è ancora ignota l'identità dell'automobilista schiacciata ieri in autostrada tra un camion e una bisarca. Difficile l'identificazione. L'auto appartiene a una donna di 56 anni della provincia di Treviso. Un trentenne italiano denunciato a piede libero dalla polizia di Trieste per violenza sessuale su una studentessa universitaria. È accaduto in un locale di Piazza Venezia. È approdata in Consiglio regionale la legge di stabilità 2025. Poco dopo l'inizio la seduta è stata sospesa per consentire alla maggioranza di riordinare i suoi emendamenti. A Gorizia il sindaco Ziberna presenta il bilancio di metà del suo mandato. In prefettura il saluto della nuova prefetta Esther Fedullo, la capitale della cultura, opportunità unica per la città. A Trieste la povertà alimentare è in crescita a causa di inflazione e lavoro povero. La testimonianza della responsabile della comunità di Sant'Egidio alle prese con l'organizzazione del pranzo di Natale. Consegnato all'Università di Udine il premio di laurea in memoria di Don Pierluigi Di Piazza, alla sua prima edizione, l'intervista al fratello del sacerdote. Presentato a Pordenone un ciclo di mostre fotografiche che inaugura i progetti contenuti nel dossier di candidatura della città a capitale italiana della cultura. Il successo di Monza rappresenta una boccata d'ossigeno per l'udinese che interrompe un digiuno durato un mese e mezzo. I bianconeri sono a metà classifica, noni, con 20 punti. Le 12:31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Lara Zani. A meno di 24 ore dal terribile incidente di ieri pomeriggio in autostrada, all'alba c'è stato un nuovo incidente mortale, questa volta lungo la viabilità ordinaria. Alle 5:20 a Domanins, sulla Cimpello Sequals, un'auto con a bordo Salah Eddine Kanchan, 25 anni di San Vito al Tagliamento, è finita fuori strada sbattendo violentemente contro un albero. Il giovane è morto per i violenti traumi. Era residente a Spilimbergo e lavorava in un'azienda agricola locale. La dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, ora è al vaglio dei carabinieri. Tornando all'incidente di ieri pomeriggio in autostrada, pare non ci sia ancora certezza sull'identità della vittima, rimasta schiacciata tra un camion e la bisarca che lo ha tamponato. L'auto appartiene a una donna di 56 anni della provincia di Treviso, ma le condizioni del cadavere non hanno finora consentito di appurare se si tratti della proprietaria del mezzo. L'incidente è avvenuto alle 16:40 lungo il tratto autostradale della A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, all'altezza del ponte sul Tagliamento. Un auto articolato si sarebbe fermato improvvisamente sulla corsia di marcia e una bisarca carica di automobili che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia lo avrebbe tamponato violentemente, prendendo fuoco. Nell'incidente, come detto, è rimasta coinvolta anche una vettura con una vittima all'interno. Un giovane italiano di 30 anni è stato denunciato da una studentessa universitaria di 20 per violenza sessuale. L'episodio contestato è avvenuto a Trieste, in un locale di Piazza Venezia. Un italiano di 30 anni residente a Trieste è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale. La vittima è una ragazza del 2004 originaria di Vittorio Veneto. La violenza si è consumata il 31 ottobre durante la notte di Halloween all'interno di una discoteca, un noto punto di riferimento della movida triestina in Piazza Venezia. L'indagine è stata avviata subito dopo la denuncia della giovane che si è rivolta al commissariato del polo di San Sabba. Agli agenti ha raccontato che durante la serata in discoteca ha dapprima rifiutato l'approccio l'uomo, che non ha desistito, anzi, con un braccio l'avrebbe stretta a sé, malgrado la giovane tentasse ripetutamente di divincolarsi, e con la mano libera le avrebbe toccato insistentemente le parti intime. L'autore della violenza è stato identificato grazie alle testimonianze di alcune persone presenti quella sera, raccolte dagli agenti. Successivamente l'uomo è stato riconosciuto dalla giovane tramite un'identificazione fotografica. Trieste, Andrea Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo, cielo da nuvoloso a coperto su gran parte della regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 8,5 gradi con bora a 50 km orari con raffiche che hanno toccato gli 83 km orari. A Pordenone 10 gradi, a Udine 9,5 gradi, a Gorizia 9, a Tolmezzo 5 gradi, a Forni di Sopra e Piancavallo 1 grado, Treviso e Sappada 0 gradi. Sul Monte Zoncolan meno 4 gradi, sul Monte Lussari meno 5, a Grado e Lignano 10 gradi. Le previsioni: dal pomeriggio avremo probabili schiarite sulla fascia occidentale della regione, mentre maggiore nuvolosità potrà permanere sulla costa e nel Tarvisiano, dove saranno possibili delle nebbie. Sulla fascia orientale, sulla costa, soffierà bora da moderata sostenuta con qualche raffica di forte intensità. Domani invece avremo cielo variabile con maggiore nuvolosità al mattino e minore al pomeriggio. Nel Tarvisiano la nuvolosità sarà più consistente con possibile presenza di nebbia. Sulla costa e sul Carso soffierà ancora bora. È approdata in Consiglio regionale la legge di stabilità 2025, la settima finanziaria del presidente Fedriga e anche la più ricca in assoluto. L'evento più rilevante della seduta in cui la legge di bilancio regionale 2024 è approdata nell'aula del Consiglio è stata la lunga sospensione decisa subito dopo l'illustrazione da parte del relatore di maggioranza Polesello del progetto di bilancio di previsione. Una decisione adottata su richiesta della maggioranza per riordinare i propri emendamenti, come spiegato dal consigliere Alessandro Basso, relatore di maggioranza della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2025. La sospensione è durata oltre un'ora tra gli sguardi perplessi e un po' annoiati degli studenti arrivati in visita da Udine e Codroipo e spettatori di una mattinata che a loro ha illustrato quanto la democrazia, oltre che di discussione e dibattito, sia fatta anche di procedure e trattative al di fuori delle aule istituzionali. Tornando ai contenuti della legge di bilancio, la manovra nel suo complesso vale 6 miliardi e 200 milioni di euro ed è la più ricca di sempre, rialzando di 500.000 il record del 2023. Più di metà dei fondi, 3 miliardi e mezzo, sono destinati al comparto sociosanitario, mentre tra le altre poste pesanti figurano i 675 milioni per le autonomie locali, i 594 per le infrastrutture e i 235 per lavoro, istruzione e famiglia. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha tracciato questa mattina in municipio il suo bilancio di metà mandato. Rodolfo Ziberna, euforico per il traguardo di metà mandato, afferma di aver ottenuto per Gorizia risultati ineguagliabili mai raggiunti dalle amministrazioni precedenti, con un bilancio di 150 milioni di investimenti sulla città in poco meno di 3 anni, di cui 36 riservati all'ambito sociale. Inoltre non considera il 2025 capitale della cultura soltanto come un obiettivo ormai alle porte, ma anche un punto di partenza per lo sviluppo futuro. Il sindaco ammette però che l'ascensore al castello rimarrà inattivo, che la rete ciclabile cittadina non è ancora completa e che al parco Valletta del Corno si continua a lavorare a 3 anni dall'inizio della riqualificazione. Annuncia però che tutta l'illuminazione della città è stata rinnovata e gran parte degli assi viari sono oggetto di riqualificazione. Si dice poi convinto che oltre al piazzale della Transalpina anche quello della Casa Rossa e l'ex mercato all'ingrosso di via Boccaccio saranno pronti a inizio febbraio per la partenza delle attività culturali di Go 2025. Dopo un ampio e proficuo confronto con il tessuto economico della città, l'amministrazione continua a lavorare al fianco del distretto del commercio per un rilancio dell'attrattività e una nuova prospettiva per il mercato coperto. Sul fronte di Corso Italia si dice convinto di riuscire a contemperare le necessità di spazio degli esercenti con quelle di mobilità per i ciclisti. Gorizia, Maurizio Merva, RTGR Friuli Venezia Giulia. Operosità, alto senso civico e lo spirito multiculturale, queste le parole usate dalla nuova prefetta di Gorizia per descrivere il territorio della provincia in cui si prepara a prestare servizio. Nella cerimonia di stamane per il suo insediamento, Esther Fedullo ha detto di volersi impegnare per accrescere la coesione sociale, la sicurezza e la legalità, condizioni imprescindibili, ha detto, dello sviluppo del territorio, ancor più determinanti nell'importante momento storico connesso al conferimento del titolo di Capitale Europea della Cultura 2025 alle città di Nova Gorizia e Gorizia. Consapevole che tale riconoscimento rappresenti un'opportunità unica per la qualificazione e lo sviluppo di questo territorio, la prefetta ha assicurato che farà in modo che gli eventi programmati si svolgano nella giusta cornice di sicurezza. È stato consegnato oggi all'Università di Udine il premio di laurea in memoria di Don Pierluigi Di Piazza, la sua prima edizione. Il riconoscimento è stato istituito dalla famiglia del sacerdote ed è rivolto a chi ha conseguito una laurea triennale o magistrale discutendo una tesi su alcuni dei temi più cari al sacerdote. In particolare la vincitrice Giulia Sassara spiega di avere trattato il tema del salario minimo. D'altra parte il fratello del sacerdote, Vito Di Piazza, annuncia l'intenzione di proseguire con l'iniziativa. Giulia Sassara, vincitrice del primo premio intitolato alla memoria di Don Pierluigi Di Piazza, con una tesi in giurisprudenza magistrale dal titolo Salario minimo costituzionale, contrattuale e legale. Di cosa parla la sua tesi? La mia tesi parla di retribuzione e produttività come due dei parametri più importanti all'interno della nostra società, o quantomeno di parametri che ci hanno permesso di aprire un dibattito che comincia dal 1948, quando entra in vigore la Costituzione, e giunge fino ad oggi, come abbiamo potuto vedere in base al dibattito che ha interessato la nostra società nuovamente fino a qualche mese fa. La mia tesi si concentra sul tema della retribuzione, su uno dei tanti aspetti concernenti il lavoro, e si concentra soprattutto sulla dignità nel lavoro, analizzando alcuni degli strumenti per garantire la retribuzione minima alla luce dei parametri della Costituzione, della proporzionalità e della sufficienza, vagliando il parametro della contrattazione collettiva, che è quello che è stato scelto fino ad oggi in Italia, e vagliando anche alcune soluzioni alternative come quello rappresentato dallo strumento legale. Siamo qui anche con Vito, il fratello di Don Pierluigi. Quali sono i valori che lei ha rivisto in questa tesi e che portava avanti con convinzione Don Pierluigi Di Piazza? Nella tesi vengono trattati anche aspetti sulla legalità, sulla parità di genere, sulle diseguaglianze economiche e sociali nei vari paesi del mondo, e quindi erano tutti temi molto cari a mio fratello. Noi vogliamo continuare nel tempo, non abbiamo posto limiti di tempo a questo premio, per cui lo faremo senza un limite. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La comunità di Sant'Egidio di Trieste sta organizzando in questi giorni il tradizionale pranzo di Natale. La responsabile del nostro programma Buongiorno Regione ha lanciato l'allarme sulla povertà alimentare in crescita in città a causa dell'inflazione e del lavoro povero. Da gennaio 2024 alla comunità di Sant'Egidio di Trieste 1.145 nuove famiglie hanno chiesto per la prima volta un aiuto per comprare cibo. Un aumento così esteso non c'era mai stato. Sono state 7.144 le borse della spesa distribuite dai volontari, una media di 162 a settimana. A richiederle persone che non hanno i soldi sufficienti per consumare pasti quotidiani regolari ed equilibrati. Loredana Catalfamo, responsabile della comunità. Le persone che si rivolgono a noi sono le più varie. Abbiamo una quota di persone straniere, ma abbiamo anche tanti italiani. Cioè basta che oggi ci sia una famiglia monoreddito con un lavoro povero che viene a chiedere una borsa della spesa. La comunità sta organizzando il tradizionale pranzo di Natale al centro congressi del Porto Vecchio, per il quale saranno all'opera più di 50 volontari. Facciamo dei doni a tutti, per cui per chi volesse aiutarci il sabato 15 e il sabato 21, dalle 16.30 alle 18.30 in via Romagna 22, dove è la nostra casa dell'amicizia, noi raccogliamo doni nuovi che sono sciarpe, che sono cappelli, guanti, sacchi a pelo, zaini o eventualmente cibi non deperibili o prodotti di profumeria e di igiene, che ci aiutano a fare un dono alle 300 persone che saranno al tavolo di Natale. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentate a Pordenone alcune mostre fotografiche che inaugurano i progetti contenuti nel dossier di candidatura della città a capitale italiana della cultura. Con una stagione espositiva dedicata alla fotografia prende il via il primo dei progetti contenuti nel dossier di candidatura a Pordenone 2027 città che sorprende. 5 mostre fotografiche, prima inaugurazione il 19 dicembre in Galleria Bertoia. Il curatore Marco Minuz. Si tratta effettivamente di una stagione di mostre, perché sono 5 progetti espositivi riuniti insieme da un tema che è quello del guardare, e riuniremo assieme un grande fotografo internazionale, Bruno Barbé, francese, per la prima volta in Italia con questo progetto, il professor Italo Zagner, storico della fotografia che non ha bisogno di presentazioni, e 3 fotografi contemporanei, rispettivamente Max Rommel, Paola Pasquaretta e Michele Tagliarioli. Il 31 gennaio la scelta delle 10 candidate finaliste. Entro primavera si conoscerà la città vincitrice. Il vice sindaco reggente di Pordenone, Alberto Parigi. Un progetto espositivo che risponde pienamente allo spirito del dossier, cioè quello di unire cultura e sviluppo sociale ed economico. Questo appunto è proprio lo sguardo dei fotografi sull'evoluzione sociale e economica dell'Italia e del nostro territorio. Questo è il primo passo e quindi lo mettiamo in campo, direi, indipendentemente da quello che sarà l'esito. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora lo sport con il calcio. Il successo di Monza rappresenta una boccata d'ossigeno per l'Udinese, che interrompe un digiuno durato un mese e mezzo. I bianconeri sono a metà classifica, noni con 20 punti. L'allenatore Costa Rugnai ci analizza con onestà l'andamento dell'incontro. Non è stata la partita migliore della stagione, ma sono arrivati i 3 punti. A seguire la voce del portiere Sava, sostituto del titolare Okoye. I think we played here and there better games. Today was not our best game, but we won. Tutte le vittorie sono importanti, abbiamo giocato delle partite migliori nel corso di questa stagione, ma si sa che il calcio è imprevedibile. Oggi abbiamo profuso un grande sforzo e abbiamo segnato nei momenti giusti, avendo anche quel pizzico di fortuna. Arriviamo a quota 20 punti ed è molto importante, ora ci attendono altre 3 partite più la Coppa Italia per chiudere l'anno. E attendiamo di giocare la prossima partita in casa davanti ai nostri tifosi, che sarà una grande partita sabato contro il Napoli. Now we have a game ahead of us at home against Napoli. Sono felice, mi dispiace per Maddo che si è infortunato, non era il mio piano di entrare così, però cerco di aiutare sempre la squadra il più possibile. Può essere la partita della svolta questa, per ritornare anche quello che eravate inizio stagione? Sì, sicuramente ci serviva tanto questa vittoria per ritornare, diciamo, a vincere le partite e tornare l'Udinese di come era prima, di come abbiamo iniziato il campionato. Autostrade Alto Adriatico ha inserito nel proprio piano finanziario investimenti di manutenzione straordinaria per un valore di circa 370 milioni di euro per la ricostruzione delle opere più datate, cavalcavie e ponti, non comprese nella costruzione della terza corsia della A4. Inoltre, nei mesi scorsi, la concessionaria autostradale, grazie ad alcuni fondi concessi dal PNRR, ha avviato i progetti per un sistema all'avanguardia di monitoraggio dinamico che consente di controllare da remoto queste opere. Attraverso l'installazione di sensori nell'asfalto è possibile rilevare il traffico in transito lungo le diverse tratte e misurare peso, numero di assi e altre caratteristiche tecniche dei mezzi pesanti. Queste informazioni, raccolte in un server collegato al database della società, serviranno ad analizzare la sollecitazione indotta dagli stessi carichi dei mezzi pesanti in transito. Finora sono state installate 3 stazioni di pesatura dinamica. L'attenzione si sposta ora nel nodo di Conegliano, dove nel corso della settimana verranno installati questi sensori. Per questo tipo di operazione si procederà all'utilizzo di passerelle mobili che occuperanno necessariamente la sede stradale. Questo comporterà alcune limitazioni alla circolazione. Ancora alcuni appuntamenti. Fabio Muccin presenta il romanzo Odio Babbo Natale alle 17.45 nella Biblioteca Civica Nico Naldini di Casarsa della Delizia. Oggi anche la presentazione del libro Scoprire il Novecento nelle trasformazioni di una città di Giulio Ferretti e Bruna Braidotti alle 18 nella sala incontri Teresina De Gan della Biblioteca Civica di Pordenone. Giorgio Pellis, già primario di chirurgia del sanatorio triestino e volontario del QAM, tiene una conferenza intitolata La nostra Africa, corredata di immagini sugli aspetti umani e professionali di un medico che ha deciso di regalare il suo sapere operando in luoghi lontani. Alle 18.30 al Circolo Fotografico Triestino. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In regia, per la parte tecnica, Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.